Oggi dobbiamo fare un incontro molto operativo e poi mi auguro che nel giro di poco tempo si possa pervenire ad una proposta operativa. Io voglio affrontare i nodi. La prima cosa è questo discorso della raccolta differenziata. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo fatto un contratto con la ditta che fa la raccolta e lo smaltimento. Per cui fra 2 anni la ditta deve raggiungere il 70%, altrimenti noi paghiamo solo il 30% per quanto riguarda lo smaltimento in discarica. Il 70% se lo paga la ditta e quindi è già scattato il meccanismo per cui la ditta o fa la raccolta differenziata per bene, e abbiamo previsto naturalmente nel capitolato una serie di misure molto rigorose. Cassonetti da non esistono, non esistono nemmeno d'estate quando arrivano 20.000 abitanti in un mese, quindi tutti si devono adeguare, per cui o si fa la raccolta differenziata o la ditta ci rimette e ci rimette di brutto. Detto questo però, a me interesserebbe però capire, fatta la raccolta differenziata, che fine fa il prodotto differenziato. Ora i nodi. Parliamo della provincia di Cosenza. Mi pare di aver capito che la regione sta preparando una legge regionale, perché finisce il commissariamento, comunque c'è una legge nazionale che obbliga le regioni a legiferare per quanto riguarda i servizi pubblici locali. Nel merito dobbiamo dire qualcosa, perché la proposta di cui ho sentito parlare la volta scorsa non mi convince per nulla, quindi nel merito qualcosa. Poi io credo che noi dobbiamo dire anche nel merito che tipi di interventi e di impianti vogliamo si realizzino in questa provincia. Io lo dico subito, io non ho preclusione di natura ideologica, a me interessa entrare nel merito e vedere come si risolve meglio e a costi più bassi il problema. L'inceneritore o termovalorizzatore, su questo io credo che come provincia di Cosenza dobbiamo dire non se ne parla più, ma per 50.000 motivi, perché quando c'è bassa densità di popolazione distribuita sul territorio è l'intervento economicamente più sbagliato che si possa fare. Io l'affronto dal punto di vista economico per non fare altre discussioni. Io non so se qualcuno conosce i dati per fare un inceneritore. Io parlo di vecchi dati. 375 milioni di euro di investimento come minimo. Il costo al trattamento di una tonnellata di rifiuto per ammortizzare l'investimento in 20 anni si aggira intorno ai 900 euro a tonnellata. Ci rendiamo conto di che costi stiamo parlando? Di quanto con una TARES che dovrebbe coprire il 100% del costo del servizio con un'aggiunta di 30 centesimi a metro quadro, significa che veramente qui daremmo una mazzata, ma secondo me nessuna mazzata perché i cittadini semplicemente si rifiuterebbero, strapperebbero i nostri bollettini e farebbero, aggiungo io, benissimo, perché i costi del disservizio della pubblica amministrazione non è che possono essere fatti pagare sic et simpliciter al cittadino. Io non aggiungo altro, non ne parliamo più e dobbiamo dire che in provincia di Cosenza non si fanno semplicemente per questa ragione, poi ce ne abbiamo tante altre. Sono dei costi nessuno farebbe mai un investimento del genere, a meno che non si tratta di pura follia e di interventi di finanziamenti pubblici proprio a livello esagerato. Dobbiamo parlare invece di un sistema di riuso, riciclaggio e trattamento del rifiuto. E quando parlo di trattamento io mi riferisco al problema organico, che va fatto in questa provincia per non attraverso, lo voglio dire con estrema chiarezza, il cosiddetto recupero energetico. Sbaglieremmo di grosso con il recupero energetico. Dobbiamo pensare invece molto al trattamento di tipo biologico e al recupero e al riciclaggio quanto più è possibile. Quindi abbiamo bisogno di piccolissimi impianti per quanto riguarda il problema che mi interessa di più di tutto, di tutti, dell'organico. Perché per il resto, ma scusate, se si fa la differenziata per bene, ma che cosa rimane? Rimane pochissimo, dai, parliamoci chiaro. E io non parlo nemmeno di discarica, perché il problema di discarica è una cosa che io voglio affrontare proprio alla fine, quando veramente non so più, insomma, una piccolissima percentuale dove metterla. E ogni comune se lo potrebbe risolvere da sé questo tipo di problema, perché poi sostanzialmente vi va un po' di inerte che posso coprire, riutilizzare, risistemare a verde. Non è, se facciamo per davvero questo tipo di raccolta differenziata, il discorso cambia totalmente. Sull'organico è chiaro, è il primo nodo, e vado rapidamente alla conclusione. Allora, linee di indirizzo strategico per quanto mi riguarda, questa parola non la voglio più sentire. O siamo in grado, in un piano, di dire si fanno 3-4 impianti di trattamento dell'organico per la trasformazione in compost, o siamo in grado quindi di fare questo individuando i comuni, i fogli di mappa e le particelle, o se non siamo in grado di fare questo, pensiamo ad altro. E ci mettiamo immediatamente a pensare ad altro. Non è che facciamo le linee guida, poi diciamo sul Tirreno, sul Pollino, poi ogni volta che dobbiamo dal cielo calarlo sulla terra, sul terreno, scoppiano le rivolte. E noi abbiamo visto in questa nostra Calabria che gli stessi assessori che programmavano questi impianti si sono messi poi alla testa di queste rivolte per dire no, non si fa più l'intervento. E l'emergenza, quando io parlavo la volta scorsa di un film già visto, è questo che ci ha portato a questa situazione. L'esito finale di questo film lo conosciamo, è quello che stiamo vivendo in questi giorni e che ci sarà sempre, sempre di più. Non siamo in grado di fare questo, allora c'è una via semplicissima: bisogna responsabilizzare al massimo gli amministratori locali. Io nel 92, quando è arrivato il primo piano regionale all'attenzione del Consiglio regionale, dissi una cosa semplicissima: discariche consortili, società consortili. Avremmo fatto le società consortili tutto, ma mai le discariche consortili, perché nessuno voleva i rifiuti nel proprio giardino, nel proprio cortile. E allora io parto da un principio elementare: vogliamo responsabilizzare al massimo gli amministratori, dobbiamo dire che se giustamente nessuno viola i rifiuti degli altri, allora ogni amministratore deve farsi carico dei propri rifiuti nel suo territorio comunale. Così capisce che i rifiuti non possono essere seppelliti, perché sennò il tuo comune diventa un cimitero di rifiuti. E ti pone il problema assieme ai cittadini di come creare un sistema virtuoso, che se fosse partito un po' di anni fa, oggi non saremmo in questa situazione, perché abbiamo sempre pensato che il nostro problema è impacchettare questi rifiuti e portarli fuori, e poi chi si è visto si è visto, e questa situazione ci ha portato naturalmente ad avere il disastro che abbiamo davanti. Concludo. La legge regionale si può fare affidando i compiti ai comuni, alle province, sottolineo province, ed alle regioni, perché l'assessore regionale fa riferimento alla legge, mi pare 27 del 2012, quando parlava dell'individuazione degli ambiti che devono avere almeno una dimensione provinciale. Benissimo, si individua con la legge regionale un ambito a dimensione provinciale, affidando i compiti della gestione di questo ambito alle province. Perché no? Io fra l'altro ormai sono arrivato ad una conclusione: io sono per l'abolizione delle regioni e non delle province, perché o aboliscono i ministeri e lasciano le regioni, ma se non aboliscono i ministeri devono abolire le regioni, non se ne scappa. Le province sono gli ambiti territoriali ottimali. I comuni sono quelli che decidono gli interventi da fare. Gli interventi da fare sul comune devono essere approvati dalle province e la regione soltanto indirizza e programma gli investimenti e le risorse che si possono rendere man mano disponibili. Ogni comune però deve sapere che se si mette d'accordo con altri comuni per realizzare un impianto assieme, per esempio per il trattamento dell'organico, deve sapere con certezza che quell'impianto sarà utilizzato solo da quei comuni, perché qui abbiamo assistito purtroppo al fatto che ormai c'è il terrore in giro. Nessuno realizza più impianti di trattamento, io sto parlando di organico, perché sanno che il giorno dopo che arrivano i rifiuti di tutte le parti. Per cui l'amministratore, che in questo caso dovrebbe essere l'amministratore virtuoso, diventa un amministratore, scusate l'espressione, fesso, che è quello che ha fatto l'impianto e il secondo giorno gli arrivano i rifiuti di tutti. Ma io non lo dico da un punto di vista egoistico, lo dico anche sapendo che o diventiamo in qualche modo tutti virtuosi e bisogna costringere tutti a diventare virtuosi, o il problema non lo risolvo, perché se io faccio solo un mio impianto e il secondo giorno è sommerso dai rifiuti, il problema ce l'ho di nuovo ovunque, dappertutto, e quindi è una situazione che si deve moltiplicare e realizzare un pochettino dappertutto. E c'è un solo modo, basta dire ognuno deve farsi i conti con i propri rifiuti, e i rifiuti degli altri nel tuo comune non arrivano se non c'è il tuo assenso e il tuo permesso. Può sembrare una cosa strana, ma guardate, questo è l'unico sistema per costringere tutti gli amministratori a responsabilizzarsi al massimo. È una cosa di cui si parlava decenni fa. Nella provincia di Cosenza addirittura si possono eliminare tutti i rifiuti attraverso il riuso, il riciclo e attraverso il trattamento, senza fare assolutamente dei grandi impianti e senza fare nemmeno discariche, così come vengono chiamate. È vero, è così, però dobbiamo essere certi che se io vengo responsabilizzato al massimo e faccio gli interventi il secondo giorno, non divento il fesso di turno. Io ho concluso. Attualmente il mio comune spende purtroppo 400 euro a tonnellate per raccogliere e fare scomparire i propri rifiuti attraverso un sistema un pochettino diverso. Addirittura il costo, così come avviene altrove, potrebbe scendere mediamente intorno al 70 euro a tonnellate. Capite che risparmio immenso ci potrebbe essere? Capite come una tariffa TARES potrebbe diventare completamente un'altra cosa? E come un fatto del genere può diventare un fatto che, coinvolgendo tutti i cittadini, fa capire come i servizi migliori, guardate, non sono quelli che costano di più, ma sono quelli che costano di meno. E questo discorso sui rifiuti ne può essere veramente una valida testimonianza. Grazie Matteo, sindaco di Marzi. Sull'emergenza non mi pare che ci siano proposte innovativa e intelligente, perché l'unica proposta è l'abbancamento di San Giovanni in Fiore, l'apertura di Canopoli oppure portare i rifiuti in Basilicata. Cioè, è inutile che ci giriamo in giro con frasi fatte e quant'altro, ma mi pare che la soluzione è questa qui. Allora, fin quando rimaniamo nell'ambito provinciale o nell'ambito regionale, se vogliamo, con la discarica di Canopoli, il discorso ci costa di meno. Se invece dobbiamo portarli in Basilicata, il discorso ci costerà molto di più. Quindi, per quanto riguarda l'emergenza, non ho altro da aggiungere, perché non credo ci sia altro da aggiungere. Invece, per quanto riguarda il piano dei rifiuti, io credo che bisogna fare molta attenzione. Io ho ascoltato con interesse quello che è stato negli interventi precedenti, però siccome sono uno che da 30 anni mi occupo di rifiuti, sono molto attento a questa cosa e sono molto sensibile a questa cosa. Sono uno che vuole, ha realizzato la differenziata spinta. Ritengo che bisogna spingere al massimo con impianti in ultima analisi di preselezione su quanto il cittadino non riesce a differenziare, e posso parlare anche quanti sistemi ci sono per portare al meglio la differenziazione dei rifiuti. Ci sono, per esempio, io ho realizzato una casetta dell'acqua, no, nel mio comune, dove immaginate che nel giro di 4 mesi non sono andate in discarica 32.000 bottiglie di acqua minerale. Cioè, voglio dire, quindi questo significa, a mio avviso, rifiuti zero, cioè cercare di colpire a monte, no, quello che poi deve essere il prodotto finale. Cioè, se io trovo delle soluzioni su queste ormai queste bottiglie di acqua minerale che ci sommergono, perché sicuramente molte di queste si riutilizzano e vengono riciclate, però intanto ci costano un patrimonio, perché dobbiamo raccogliere, dobbiamo stivarle e dobbiamo portarle, diciamo, in distribuzione. Quindi, voglio dire, si può intervenire anche all'origine per cercare di impedire il rifiuto. Sui rifiuti zero, io ho già detto nell'ultima riunione che abbiamo avuto, ho molti dubbi. Perché nel nessun paese occidentale, a meno che non sia l'Africa, dove i rifiuti sono solo di carattere organico, ma se ci sono in qualunque paese occidentale, il rifiuto zero significa intervenire sul sistema produttivo. È inutile che ci prendiamo in giro. I rifiuti zero non esistono se non nel cambiamento. È una bella utopia, sicuramente, che condivido e che mi piace pure dal punto di vista ideologico, ma dal punto di vista pratico e amministrativo la vedo un pochettino irrealizzabile, a meno che non la vediamo in una proporzione, in una proiezione, diciamo, centenaria, da qui a 50 anni, da qui a 60 anni, ma sul momento la cosa non la vedo praticabile. Quindi sicuramente la differenziata porta a porta, la differenziata spinta, la differenziata con impianti ad hoc, che possano portare alla fine ridurre questa percentuale di RSU, ridurla al minimo. Il minimo è lì che abbiamo il problema. Cioè, l'unica divergenza che io ho con questa proposta di rifiuti zero è lì. Io non sono per un termovalorizzatore eccezionale, assolutamente sono contrario, per questi mega impianti, no, che vanno a creare non solo problemi di carattere economico, come ha detto precedentemente Madeo, ma creano problemi di viabilità e creano sicuramente forse qualche problema di ambiente. Io propongo, no, e questo lo ribadirò poi in maniera più dettagliata in questo gruppo di sintesi che dovremmo comporre, io propongo intanto di fare dei microambiti. dove ci siano dai 50, vengono contemplati 50 ai 100.000 abitanti, non di più. All'interno di questi microambiti si può gestire in maniera molto, voglio dire, molto, molto bene, si può gestire la differenziazione dei rifiuti e lo smaltimento dei rifiuti, con degli impianti ad hoc che non inceneriscono il rifiuto, ma lo trasformano in inerte e in syngas. Ci sono degli impiantini che sono dell'ordine di un container, cioè, che si possono montare dalla sera alla mattina, cioè non sono mega impianti e non costano nemmeno l'ira di Dio, che sono dei moduli che costruiscono da 25 tonnellate a 2000 tonnellate, insomma, mega impianti, però a noi interessano quelli di 25 tonnellate, 30 tonnellate di aria, 50 tonnellate, non di più. Quindi in modo da creare dei problemi. Questi sono degli impianti, se ne è sparsa tutta l'America, l'Islanda, l'Irlanda, la Svezia, sono pieni di questi impianti, che sono piccoli impianti, non mega impianti, che usano la pirolisi come... La pirolisi con dei gasificatori a plasma che lavorano a circuito chiuso e producono solo un inerte che può essere utilizzato come sottofondo statale, oltre naturalmente all'utilizzo del syngas, eccetera, eccetera, e quant'altro. Però la soluzione è che noi in questa maniera avremmo intanto la tranquillità, non saremmo costretti più a fare discariche che deturpano e distruggono il territorio, e abbiamo una proposta secondo me seria, no? E non chiacchiere e parole perché o filosofie, ma una proposta seria, perché qui nessuno mi è venuto a dire dove mandiamo, dove trattiamo in ultima analisi il rifiuto. Nessuno lo dice. Lo trattiamo come? In discarica. In discarica, o si brucia o in discarica, non ce ne sono altre, non ci prendiamo in giro. Se vogliamo fare delle proposte sensate all'assessore Pugliano, non ci dobbiamo prendere in giro noi prima di tutto, perché a fare filosofia è semplice, ma o a dire sempre no, come fa il nostro amato Grillino, lo dice sempre no, però va a ministra, andiamo ad amministrare e troviamoci i cittadini alla porta, che ti portano alla porta del comune la busta di plastica e poi diciamo diamo delle risposte. Voglio dire, che dire no è semplicissimo. Allora, per me la situazione, il problema si potrebbe risolvere in questa maniera. Per quanto riguarda l'organico, sono uno di quelli che ha fatto un sistema di lombricoltura dove noi, voglio dire, il mio è un piccolo paese, cioè non voglio fare nelle, voglio che queste cose si vedano in una grossa città, il discorso può essere diverso. Comunque voglio dare un dato. Nel mio paese piccolo abbiamo realizzato questo impianto dell'agricoltura. Tutto l'organico ormai funziona da 4 mesi, tutto l'organico viene smaltito da lombrichi che producono un compost, un humus che è altamente richiesto perché è un fertilizzante di classe A. I lombrichi si riproducono continuamente, si possono vendere sia per la pesca sia come mangime animale, per cui noi abbiamo adesso, non abbiamo chiuso ancora il ciclo produttivo perché cominciamo a vendere l'humus diciamo fra un paio di mesi, dopo 6 mesi che viene utilizzato, quindi viene maturato, per cui abbiamo usato questo tipo di soluzione, ma ce ne sono altri, ci sono dei gestori anaerobici che possono essere utilizzati dove si smaltisce l'umido, perché la quantità di compost che fanno le aziende private, poi questo, la verità è che questo compost non viene venduto, va in discarica, quindi praticamente da preso in giro, ci torniamo di nuovo, cioè siamo di nuovo con questi mega impianti, trattano l'organico, esce fuori un compost che è sintetico, voglio dire, e va in discarica, perché non lo vendono. Quindi voglio dire, mentre invece il mio prodotto, ripeto, è un piccolo paese dove cioè, va preso con le pinze ovviamente, no? Questo prodotto, che c'è un prodotto completamente naturale, per cui può essere anche distribuito per le campagne, regalato ai contadini, regalato ai coltivatori di patate o quant'altro. Potrebbero essere utilizzati i digestori anaerobici che si usano da tempo, è una pratica che si usa da tempo. Però voglio darvi un dato, la Bonduelle, quella che vende quelle scatolette di mais, fagioli e quant'altro, ha un mega impianto di lombricoltura dove non fa altro che chiudere il ciclo produttivo, cioè produce la roba che smaltisce, che deve smaltire dal trattamento di questi prodotti, la mette nelle lettiere dei lombrichi, i lombrichi fanno l'humus lo utilizza per la corte, cioè è un ciclo chiuso, un ciclo biologico naturale, assolutamente naturale, che quindi e dà dei prodotti sicuramente biologici, sicuramente buoni. Quindi la mia proposta è di cominciare a pensare non assolutamente termovalorizzatori, questo sono d'accordo con chi mi ha preceduto, che tengo mega impianti, a parte non tanto per l'inquinamento, guardate, perché l'inquinamento è super controllato, cioè non è questo il problema. Il problema è che ci sono dei costi enormi per mantenere un impianto di questo genere e i costi che vanno poi a aggravare già tartassati i cittadini, quindi oltre a creare problemi di viabilità che non sono del tutto indifferenti, quindi creare delle microzone che possono soddisfare questo e ognuno di noi, ognuno di in questi piccoli ambiti, creare un circolo virtuoso dove effettivamente la differenziazione si può portare fino alle estreme conseguenze, ma poi in ultima analisi, proprio per evitare le discariche, con questi impiantini si possono risolvere i problemi. E allora questo secondo me può essere il sistema condiviso dalla Regione Calabria, dalla provincia, dalla Regione Calabria, per poter risolvere il problema nostro dei rifiuti. Per quanto riguarda un'altra novità, perché sono cose che sono utilizzate da tanti altri paesi, voglio dire, per quanto riguarda la differenziata, ci sono anche delle macchine che potrebbero essere finanziate, dove i supermercati ritornano al riciclo della bottiglia di vetro, la bottiglia di vetro, quando si compra una bibita con la bottiglia di vetro si paga una tassa come si fa in Svezia, no? Se voi andate in Svezia, una bottiglia di birra pagate, non so, 1 euro la birra e 10 centesimi la bottiglia. Nel momento in cui vai a restituire la bottiglia ti restituiscono i 10 centesimi. Oppure vai nei supermercati dove sono provvisti di questi impiantini, dove vai, metti la bottiglia e ti restituisci i soldi. O fare con i codici a barre, come dire, controllare il rifiuto del cittadino. Voglio dire, questi sono tutti meccanismi culturali, secondo me, dove l'informazione e la comunicazione è importante, che spingono il cittadino a poter fare, spingere fino all'esasperazione la differenziazione del rifiuto. Quindi questa è la situazione. Le isole di il CONAI, deve essere coordinato dalla provincia. Perché adesso noi siamo succubi, siamo dipendenti dalle imprese private. Noi siamo costretti a portare, nel mio caso, i rifiuti o a Calabria Maggiore o a Ecologia Oggi. Per cui sono loro che poi valorizzano il rifiuto e ne hanno un beneficio. Io non lo posso fare, a meno che non c'è un coordinamento RAE, un coordinamento con RAE della provincia di Cosenza. Cioè io ho la mia piccola isola ecologica, me la gestisco, sono coordinatore RAE, cioè ce l'ho tutti questi meccanismi, però da solo, cioè, non andiamo da nessuna parte, io mi fermo a un certo punto, il piccolo comune, la piccola realtà si ferma, non va oltre, ha bisogno di un coordinamento più generale, più organizzato, che mi possa portare in distribuzione quanto io produco. Io addirittura raccolgo gli oli usati, raccolgo le medicine, gli indumenti, cioè raccolgo tutto. Cioè differenzi un po' tutto, però alla fine rimane sempre una percentuale che bisogna smaltire e che sicuramente non può essere a discarico. Quindi non non ci sono soluzioni, non ci prendiamo in giro e lavoriamo in questi termini. Io ho finito. Grazie sindaco. Il sindaco di Rossano. Grazie, io sarò brevissimo, fosse altro perché intendevo questa riunione di oggi, la intendo ancora, alla risoluzione dell'emergenza, perché noi abbiamo la pattumiera sulle strade, Rossano che è sede di impianto alla pattumiera per strada, i miei colleghi sindaci, le mie città, i miei comuni limitrofi hanno la pattumiera per strada. E penso che l'assessore Aieta, così come il presidente Oliverio, hanno fatto bene a convocare questo incontro. L'ho promosso più volte io insieme al consigliere Rabani, perché oltre ad essere sindaco sono consigliere provinciale. Ovviamente avevo promosso un consiglio provinciale, ma ritengo che forse sia più utile parlare, fare delle conferenze dei sindaci, confrontarci. Ma non voglio dilungarmi e non voglio parlare del futuro, che potrei parlare della mia città, di un capitolato che stiamo rivedendo, che raggiungerà gli obiettivi del 65-70%, potrei parlare di tante cose, di un programma che ho io, delle mie idee che ho, delle idee che ha il mio territorio, la Sibaritide. No, non siamo qui per parlare di questo, ma siamo qui per parlare di emergenza e siamo qui per affrontare un problema serio, quello di ripulire eventualmente le nostre piazze, le nostre vie dalla spazzatura. Lo diceva Oliverio poc'anzi, parliamo di differenziata, sono d'accordissimo, dobbiamo raggiungere non il 75%, il 100% della differenziata, però diceva Oliverio, la nostra prerogativa oggi è quella di ripulire le nostre città. Guardate, noi stiamo per arrivare, è imminente la stagione estiva e noi siamo nei guai. Rossano, l'impianto di Rossano, che è un impianto subito, un impianto che funziona forse a 40-30%, perché non funziona come dovrebbe funzionare, perché Rossano avrebbe dovuto produrre CDR di qualità, non produce assolutamente niente, produce schifezza, dovrebbe separare i rifiuti in maniera eccezionale, non li separa, quindi è un impianto che è una presa per i fondelli ed è lì che dobbiamo combattere con la Regione Calabria affinché si investa su questi impianti. Perché guardate, nessuno probabilmente si era accorto, ma noi non siamo in emergenza rifiuti solo oggi o da 4 mesi a questa parte, noi siamo stati in emergenza rifiuti nel 2009 e nel 2010, probabilmente nessuno se ne è accorto. Nessuno se ne è accorto perché Rossano, con sede di discarica oltre a sede di impianto, caro assessore Aieta, ha dato ospitalità a mezza Calabria, anzi a tutta la Calabria, ha dato ospitalità a tutti i comuni. Ha dato ospitalità agli scarti che provenivano da Alli, che provenivano da Crotone, da Catanzaro, da Reggio Calabria. Rossano hanno bancato 330.000 metri cubi di rifiuti. A Rossano dal 2009 al 2010, per un anno e mezzo, hanno bancato 1.200 tonnellate di rifiuti al giorno. Ecco perché io mi arrabbio quando poi qualcuno mi critica, quando qualcuno critica determinate decisioni che ho dovuto prendere purtroppo per la mia città, perché come deve sentirsi una città che ha ospitato tutti e tutto per anni, oggi questa città, la città di Rossano, non viene ospitata da nessuno, tutti chiudono le porte a Rossano, perché Rossano è una città grande, produce 45 tonnellate di rifiuti al giorno e non è possibile abbancare gli scarti in nessuna discarica. Un commissariamento per 15 anni che ha fallito, ci sono delle responsabilità. Ho fatto sempre appello alla magistratura che indaghi sullo sperpero di denaro pubblico che c'è stato lì per 15 anni, indipendentemente dai colori politici che hanno contraddistinto la Regione Calabria e che hanno contraddistinto il governo centrale, che si indaga su questo milione di euro, su questo miliardo di euro che è stato speso, se non erro, in 15 anni di commissariamento. Si indaga anche su questo, perché non è possibile che in 15 anni non si sia potuto partorire da quella mente scellerata di quei commissari all'emergenza rifiuti che si sono succeduti, non è possibile che non si è partorito nulla tranne che spendere soldi e tranne che elargirsi stipendi, ma stipendi d'oro. E allora su questo, anche su questo dobbiamo farci carico. Ma al di là di questo, che cosa dico io oggi? Dico che c'è la imminente stagione estiva in arrivo, che ben venga tutta la differenziata di questo mondo, ma l'immondizia che è per terra da 3 mesi non è possibile differenziarla. Mi faccio carico anche dei problemi della mia vicina Corigliano, che essendo orfana di politica amministrativa, oggi ha circa 2.500 tonnellate di rifiuti per strada. E noi di questo dobbiamo farci carico. Io mi faccio carico anche dalla vicina Corigliano, mi ha chiamato il prefetto l'altro giorno. Dice, sindaco, mi dia un'idea come possiamo fare per aiutare la città di Corigliano. Io non lo so come possiamo fare. Perché anche se a Corigliano gli dessimo eventualmente un quantitativo maggiore di abbanco su Bucita, non ce la farebbe mai a smaltire 2.500 tonnellate che sono lì buttate per strada da 4 mesi. Allora come vogliamo agire? Vogliamo prenderci in giro? Io dico prendiamoci in giro. Io penso che la soluzione al momento dell'emergenza rifiuti è per tamponare fino ad agosto, fino a settembre, per poter dare delle città dignitose, un territorio dignitoso, una provincia di Cosenza che possa ospitare i turisti, perché altrimenti è inutile che andiamo a fare propaganda turistica in giro, andiamo alla fiera, alla BIT, eccetera, eccetera, poi arriva la gente e trova l'immondizia, perché vedere Reggio Calabria a striscia in quelle condizioni non fa onore né al sindaco e né fa onore alla Calabria intera. E allora qual è la cosa da studiare, il tavolo da fare, da comporre con collaboratori, con sindaci che studiano l'emergenza, tamponare l'emergenza da qui ad agosto, come la tamponiamo? Il sindaco di Castrolibero aveva proposto alla Regione Calabria tempo addietro un progetto, non so, di una discarica, caro sindaco, dove avrebbe potuto probabilmente risolvere questi problemi che oggi noi abbiamo, e non è stato approvato. Se non è 5 anni, langue lì alla Regione Calabria. Abbiamo problemi sulla discarica di Castrovillari. Castrovillari avrebbe potuto utilizzare la sua discarica per sé e per il territorio, per un cavillo tecnico, un cavillo burocratico, non gli lasciano assolutamente l'autorizzazione. Abbiamo altre discariche che hanno avuto i permessi, hanno avuto il via, hanno avuto il collaudo, queste discariche sono chiuse. E un commissario all'emergenza rifiuti che avrebbe dovuto gestire l'emergenza, avrebbe potuto requisire qualsiasi discarica per poter abbancare i rifiuti e non farli stare per strada. Questo ci dobbiamo dire. Che poi siamo tutti bravi a dire il ciclo combinato, il 75%, l'80%, come la raccogliamo, dove la mandiamo, siamo tutti bravi. Noi abbiamo il dovere di gestire e di governare questa emergenza. E io in primis, in qualità di sede di impianto, in qualità di sede di 2 discariche, una satura e un'altra sequestrata dalla Procura della Repubblica. Queste sono le situazioni che sono successe nella mia città e io mi devo fare carico di questo, devo fare carico anche di dire alla mia gente, alla città di Rossano, guardate, noi abbiamo ospitato l'immondizia di tutta la Calabria per circa 3 anni e guardate che oggi Rossano ha l'immondizia per strada e che cosa gli vado a spiegare? Che ognuno si chiude nel limbo e che ognuno nel suo territorio eventualmente non vuole l'immondizia dell'altro? Eh no, non è così. Penso che ognuno debba avere un minimo di solidarietà verso quei comuni e verso quei territori che in campo di rifiuti hanno sempre dato alla Calabria. Allora questo vi chiedo oggi, parliamo della soluzione del problema immediato, perché l'emergenza non è assolutamente superata. L'impianto di Rossano, caro sindaco di Cassano, è fermo da 4 giorni, non si capisce che c'è. Da qui a giorni noi ci troveremo l'immondizia nuovamente in mezzo alla strada e di questo non è succube solo Rossano, perché ne sarà succube tutto il territorio, dalla Basso Ionio fino ad arrivare agli altri comuni che abbancano eventualmente su Rossano. Allora sono queste le soluzioni e io chiedo al Presidente del Consiglio Provinciale Orlandino Greco, chiedo alla Ieta, all'Assessore, sono queste le problematiche e su queste problematiche che dobbiamo venirci incontro e dobbiamo dire a Pugliano che cosa deve fare eventualmente. Perché se non ha avuto gli attributi il commissario all'emergenza rifiuti dicendo apriamo questa discarica per 2 mesi, per 3 mesi, risolleviamo la città dall'immondizia e poi eventualmente studiamo il prossimo piano di rifiuti, quale deve essere? Se non ha avuto gli attributi il commissario all'emergenza, questi attributi li dovrà avere Pugliano e Pugliano li dovrà avere questi attributi con la nostra forza, perché lo dobbiamo eventualmente spingere ad andare avanti. lo dobbiamo eventualmente spronare ad andare avanti all'assessore Pugliano. È questo che dobbiamo fare, perché da quando c'è l'emergenza rifiuti, ricordatevi una cosa, che il sottoscritto si è svestito completamente da qualsiasi connotazione politica e sta facendo il sindaco al servizio della città e del territorio. È così che dobbiamo fare tutti, al di là se siamo di destra o siamo di sinistra. Quindi, caro assessore Aieta, grazie per questo incontro. Io penso e spero che ce ne siano altri, però assessore, ci dia una mano e che tutti insieme possiamo eventualmente aiutare Pugliano a risolvere l'emergenza rifiuti. Il futuro, per il futuro, si vedrà, ma dopo l'estate eventualmente. Grazie. Bene, grazie sindaco. Sindaco di Crosia, Gerardo Aieta. Molta parte dell'intervento è stato accenno, penso inutile dagli interventi che mi hanno preceduto. Io volevo fare una considerazione, intanto non mi auguro di ritrovarmi nuovamente qui la prossima volta per fare le discussioni che stiamo facendo, se non per alcuni sprazzi utilissimi, quello di Madeo, cioè noi già l'altra volta abbiamo sollecitato intanto un incontro operativo e su questo penso che abbiamo l'obbligo tutti, e il grido del sindaco di Rossano, meno male finalmente, e poi il grido di tutti. Siamo in una situazione assurda, assurda. Noi non possiamo pensare, o meglio potremo pensare a quello che dovrà essere sicuramente, ma abbiamo alle porte l'estate e siamo in mezzo alle immondizie. Malgrado gli sforzi, la mia città è pulita, se ci vai lì, fai una passeggiata, Crosia la trovi pulita, ma la trovi pulita perché ho trovato un espediente di pressaggio e ho adesso da parte centinaia di balle di rifiuti che devo andare a smaltire. Il paese è pulito, no, il paese è pulito perché non c'è il rischio di epidemie e di altro. Le ho spostate, le sto spostando altrove, però domani che faccio quando arriverà il caldo ed altro? Allora qui si tratta di trovare e prendere il coraggio a due mani. Noi proponevamo l'altra volta e riproponiamo, noi del Basso Ionio e della Valle del Trionto, proponiamo che si dia ai comuni per settore, perché trovare la soluzione secondo me ci palleggeremo per tanto tempo e i tempi saranno troppo lunghi. Se a me dicessero oggi, a me comune di Crosia, vedi, risolviti il problema con tutte le coperture legali, perché non voglio tornare ad andare in tribunale, no, con tutte le coperture, io ho alla nostra fascia della Valle del Trionto e del Basso Ionio, se ci dicessero, se decidiamo in questa direzione, trovatevi la soluzione, proponetela che ve la autorizziamo, noi probabilmente nel giro di pochi giorni riusciremo a trovare la soluzione. Viceversa, rimanere con l'estate che si avvicina alle porte, no? E continuare a discutere del sesso degli angeli per molti aspetti, perché di questo si tratta. Io poi andrò dal sindaco Di Marzi perché voglio comprarla subito questa macchinetta. Solleciterò i miei colleghi del territorio a comprarla immediatamente, se così è, non ho motivo di non credere che è così. Quella che mi rifinisce, io guardo, io ho la raccolta porta a porta, te la chiederò perché il mio comune fa la raccolta porta a porta ed il mio dilemma, il mio problema è la fase finale, quella che tu, di cui tu parli, è quella il mio dilemma, perché oggi non ho dove andare a conferire il residuo, non so dove andarla a conferire, perché per il resto ho obbligato i cittadini, li ho obbligati col mezzo degli operatori ecologici che non prelevano se non è differenziata, e se non è differenziata in un certo punto in alcune aree periferiche purtroppo non sono potuto arrivare perché a Busto non possiamo conferire più, abbiamo avuto i problemi che abbiamo avuto nei mesi scorsi, però se quella macchinetta, come penso, è vera, io ti prego per cortesia, ti inviterò ufficialmente a venire con il produttore, con il venditore di questa macchina, perché la compriamo subito. Allora io ho finito perché non voglio ripetere le cose che sono state già dette. Insistiamo con un programmino, ma immediato, senza pensare a tempi lunghi, che ci metta in condizione, come Valle del Trionto e Basso Ionio, in condizione di risolverci il problema da soli, non daremo fastidio a nessuno. Ma ci dicano Ecco, cerchiamo di organizzarsi in modo tale che possiamo agire. Punto, questo è tutto. Sindaco di Vermicano. Chiedo scusa, io sarò telegrafico perché molte delle cose sono già state dette e quindi non è il caso di riprendere nelle polemiche nei confronti del commissario ai rifiuti e tutte le problematiche che sono connesse. Io personalmente voglio semplicemente dare un piccolo contributo alla questione che abbiamo progettato ed avviato nel comune di Vermicano. È un piccolo comune, un po' più grosso di quello di Marzi, per cui certe cose si semplificano, però non sono manco semplici. Uno è la realizzazione di un'isola ecologica, perché quando si parla poi di isola ecologica spesso si parla di un contenitore, ma i cui contenuti anche a livello tecnologico richiedono una riflessione. E nel caso nostro si tratta di un'area che è attrezzata per il primo pretrattamento del rifiuto raccolto con differenziata spinta porta a porta. Se non c'è quella, non funziona manco poi il dissociatore molecolare di cui parlava il sindaco di Marzi prima, perché ci sarebbe una dispersione energetica che non avrebbe alcun senso quel tipo di impianto. Quindi la raccolta differenziata porta a porta significa molto semplicemente anche avere un rapporto con la cittadinanza di tipo diverso, per cui noi abbiamo pensato ad una card premiale per cui consegniamo ad ogni famiglia, l'avevo detto l'altra volta, ad ogni scuola, ad ogni ufficio, ad ogni albergo non c'è, ristorante, c'erano, purtroppo non ce ne sono più nei nostri paesi, ristorante, uffici, una card per cui chi è più riciclone riceve più punti. Alla fine dell'anno questi punti si traducono in euro che si scaricano dalla bolletta. Ovviamente questo ha destato molto entusiasmo nella popolazione e stiamo continuando nell'attività di animazione. A valle, partendo dalla considerazione del fatto di avere una piccola comunità che riciclava totalmente l'umido fino a 50 anni fa, siamo noi addivenuti anche alla stessa soluzione del comune di Marzi. Un impianto di lombricoltura che ci consente la totale eliminazione della parte umida, che voi sapete incide, non lo so, poi variano le percentuali, intorno al 35%, con costi notevoli e con le problematiche che comunque il contenimento poi agli impianti specializzati non risolve il problema, perché non produce un humus utilizzabile, quindi queste avanti di questo passo. Le criticità che noi abbiamo su questo impianto quali sono? Uno è il fatto delle quantità da stoccare, per cui abbiamo dovuto leggermente sovradimensionare alcune aree. Faccio un esempio: la carta in 6 mesi degenera se non è opportunamente protetta, per cui non può essere poi riciclata in cartiere. Una serie di altri problemi sono le quantità di alluminio che noi pressiamo all'interno di questo impianto che è differenziata, o il vetro che viene macinato all'interno, si viene macinato e messo in sacchi e poi trasferito se lo vengono a prendere da Milano, però dobbiamo raggiungere delle quantità di 33 metri cubi. Tutto questo ci viene pagato, tutto questo va poi a vantaggio il comune. Da questo punto di vista non introita nulla, il 40% di quello che ci viene pagato, abbiamo firmato già i contratti, tutto va una parte al cittadino per il 40% e per il 60% alla cooperativa che gestisce la raccolta differenziata. Qual è il problema per ottimizzare questo sistema? Ne stiamo ragionando con alcuni amici sindaci. Toscano ha dato dei dati, a me risulta che nel Tirreno ci sono già 3 isole ecologiche realizzate e ce ne sono altre. Perché è possibile? Ma non è vero, secondo me ci deve essere anche qualche problema d'ufficio. Per esempio, noi, e non siamo stati citati nell'elenco, abbiamo avuto l'autorizzazione dalla provincia, quindi ci sarà qualche problema di un'autorizzazione per, non l'autorizzazione, vabbè, me la vedrò poi con... non stiamo a fare promesse, non ne usciamo. E difatti non sono sottoposto ad autorizzazione. E il nostro problema qual è con i sindaci della zona? Quello di ottimizzare i tempi di stoccaggio e quindi di conferimento, per cui noi, e vi propongo qui, laddove ci sono queste possibilità, di andare verso una rete delle isole ecologiche esistente e a un loro ammodernamento in funzione di una raccolta differenziata spinta. Questo può agevolare in tempi anche brevi un aumento delle quantità di rifiuto differenziato e quindi conferito come merce e non più come rifiuto. Grazie, vorrei che questo venisse ritenuto. Grazie a te. Io, prima di dare la parola al sindaco di Cassano, vorrei dire una cosa. Intanto vi pregherei di non andare via, perché alla fine concludiamo anche con uno strumento operativo che ci permettiamo di suggerire. Poi volevo anche dire un'altra cosa che è importante, perché vedete, se noi siamo al punto in cui siamo è perché abbiamo sempre discusso di emergenza nel momento dell'emergenza, cioè abbiamo più o meno fatto come ha fatto il commissario, che con le proprie ordinanze veicolava i rifiuti a destra e a manca. Ora, perché non vogliamo scomporre la questione? Perché vogliamo che si tenga un tavolo dove le due questioni vengano affrontate? Perché è vero che noi abbiamo un'emergenza e sull'emergenza si interviene. Lo stiamo facendo tra l'altro raccogliendo i dati degli spazi che abbiamo a disposizione, a fronte anche di una dichiarazione pubblica che ha fatto l'assessore Pugliano, che fra un paio di settimane riapre piano. Ed è una questione. Ma è anche vero che noi un salto di qualità su questo lo dobbiamo fare. Insomma, se la provincia si assume anche questa responsabilità, lo fa perché convinta nell'alto senso e nella maturità istituzionale dei sindaci della provincia di Cosenza nel raggiungere quote civili di differenziati, perché non ci siamo. Cioè, dici una verità, perché se no, guardate, noi potremmo ingenerare, no? Potremmo lanciare un messaggio distorto, terribile, e cioè la rassegnazione delle istituzioni pubbliche rispetto a un dato che non solo viene imposto per legge, non solo, ma siccome noi, molti dei nostri comuni sono comuni visitati perché stanno sul mare, perché stanno in montagna, raggiungibili con pochi minuti di strada, vi chiedo scusi. Uno degli elementi caratterizzanti oggi delle vacanze e del turismo è la pulizia delle città. Allora, è vero che non dobbiamo avere rifiuti per strada e quindi ci dobbiamo preoccupare di togliere subito, ieri, non domani, ma è anche vero che se segnali di civiltà vogliamo dare, ce li dobbiamo dare con questa raccolta differenziata ad alti livelli. Non ci possiamo più accontentare di piccole cifre ridicole che abbiamo noi in Calabria. Il 12% non ce l'hanno neanche nel Sudafrica. Chissà la verità. Allora, io dico, il sindaco di Cassano si può avvicinare, rimaniamo qui, mancano pochi interventi, manca il sindaco di Cassano, poi l'ingegnere Gallo per il comune di Rende e Frank Turco della rete difesa del territorio. Dopodiché vi pregherei di aspettare, perché ho dei suggerimenti da dare all'assemblea. Prego. Allora, buongiorno, io ringrazio l'assessore Aiete, naturalmente il presidente Olivieri, per aver provocato questo incontro. Io non sono stato all'incontro che si è tenuto precedentemente perché era pure, comunque ha partecipato l'assessore all'ambiente del mio comune, mi ha riferito stamattina, anziché mandare lui ho voluto partecipare io di persona perché era giusto che lo facessi, anche perché io avverto il dovere, forse uscendo anche fuori dal coro, di dire l'esperienza che ho potuto consumare in questi 10 mesi di sindaco, sì, no, 10 mesi. Perché noi la differenziata la dobbiamo fare, no, non ci sono proprio dubbi, però dobbiamo dare risposta a questo. Luz, Spezzano Albanese, Castrovilla, dove il sindaco sta ammazzando per avere le autorizzazioni ad avere una discarica, e poi c'è chi ancora in questa regione, nonostante noi siamo pieni di spazzatura sulle strade, ancora dice ma nel mio comune l'immondizia non deve venire perché se no arrivano i rifiuti pericolosi, eccetera eccetera. Noi siamo amministratori, abbiamo il dovere di ripulire le nostre città. Guarda, io mi sento sono in crisi quando incontro Giuseppe Antoniotti, no? Perché io non riesco ad essere solidale con lui, eppure io ho una discarica, no? Lui tante volte mi ha chiamato, fammi scaricare, mi dispiace, non è possibile. Perché? Perché io ho fatto un accordo con il commissario per l'emergenza ambientale nel mese di giugno, dopo un mese, sì e no, che ero sindaco. Con lui abbiamo stabilito un percorso, nella discarica di Cassano Iovi scaricano tutti i comuni che dalla sponda sinistra del Crati arrivano ai confini con la Lucania e la Basilicata, quindi sono 17 comuni. Nel corso dei mesi, ordinanza IOSA, hanno rifilato comuni continuamente, eccetera. A quella data il comune di Cassano Ioni accreditava dall'ufficio del commissario per l'emergenza ambientale oltre 1.500.000 euro per oneri di gestione e per oneri di post-gestione. Da precisare, così come ha fatto Peppino Antoniotti, che a Cassano Ionio ci sono già 3 buche, 300.000 tonnellate di rifiuti abbancati, buche che noi dobbiamo gestire, perché voi sapete che non è che soltanto bisogna costiparlo all'immondizia, poi bisogna anche gestirlo per un certo numero di anni e tutto ciò provoca un grande, grande onere. Oggi, stamattina, non ieri mattina, stamattina, io poco fa mentre ero qui sentivo parlare il sindaco di Saragene che ci ha fatto una bellissima lezione, mi devo complimentare con lui perché effettivamente ha risolto il problema nel suo comune, noi dobbiamo abbeverarci alla sua esperienza, copiarla, attuarla, per me forse diventa più difficile perché io ho 400 abitanti, in uno di questi 100 abitanti stiamo facendo la differenziata, arriva al 60%. Anche se poi nemmeno a farlo apposta mi trovo i sacchetti della spazzatura che viene prodotto in quel quartiere e me li portano distanti perché c'è il cittadino che non vuole fare, provvede diversamente. Però poi ciò sì, per l'Europa che sta facendo le zone, le contrade rurali diventano molto più difficili per farle e per farla anche spinta, anche se la dobbiamo fare. Ma il fallimento rispetto alle differenziate per lì non è dei comuni. Guardate che il piano regionale dei rifiuti, ve lo dice uno che ha lavorato all'ufficio commissario per l'emergenza ambientale, nel Logallo eravamo insieme, poi lui è andato, io sono rimasto al settore acqua, grazie di Dio, abbiamo lavorato, abbiamo visto il piano regionale dei rifiuti, è stato un fallimento perché sono state fatte le società miste che avrebbero dovuto togliere i comuni dall'impiccio, società miste che sono tutte puntualmente fallite perché non c'è stata una mentalità riformista rispetto al problema. E anche in provincia di Cosenza, io sento ancora parlare del termovalorizzatore, non se ne fa, è stato fatto, è stato raddoppiato Gioia Tauro, dobbiamo produrre, mandare il prodotto a Gioia Tauro perché non funziona quell'impianto. Allora c'è bisogno di impianti per selezione di rifiuti, tante bucite, no? Che devono funzionare veramente e produrre quel famoso CDR che poi deve essere lì smaltito a Gioia Tauro, perché altrimenti abbiamo realizzato un grande impianto che lavora a scartamento ridotto. Però nella nostra provincia, amici miei carissimi, noi siamo stati noi in generale, che non è un'accusa non al governo della provincia, non vorrei essere fraintesa, non c'entra proprio niente, né Oliverio, né nessuno, tutti quanti noi siamo stati distinti e distanti dal piano regionale del rifiuto, non abbiamo voluto realizzare nulla. Allora l'impianto di Besignano non l'abbiamo fatto, ma cosa succede? Che Besignano chiama me, posso scaricare i rifiuti. L'impianto che era previsto nella zona del Pollino di preselezione non l'abbiamo fatto, e c'è chi stamattina ancora dice vallo a portare a Cassano. Nel nostro territorio no, perché a Cassano può esserci il rifiuto pericoloso, nel mio territorio no. L'impianto sull'Alto Tirreno è nemmeno, l'impianto nel Savuto è nemmeno. Adesso stiamo scoppiando, noi stiamo scoppiando per questo. E allora noi in questi giorni dobbiamo affrontare, in questi mesi, il problema emergenza. Per esempio, stavo dicendo che mentre parlava il sindaco di Saraceno, mi hanno chiamato, mi ha chiamato Rizzuto, il sindaco di Villapiave, che vi saluta tutti, lui non è informato della riunione, e mi dice, ma che sono i tuoi vigili nella stazione di trasferenza, sono i vigili del comune di Cassano che stanno verificando, perché ancora Saracena viene alla stazione di trasferenza di Villapiave se c'è un'ordinanza a termine da parte del commissario per l'emergenza. Mi da facciamo i furbi, no? Cioè praticamente io ho fatto un accordo, sono 17 comuni, poi mi chiami il prefetto, dice, ma 1000 tonnellate te le rifiliamo, perché mo ci sono i ministri a quotidiano che devi scaricare, mo ci sono chiamati per una mano, poi mi chiami il sindaco di quel comune, un cassone, tu fai finta di niente e sei frainteso anche dai tuoi dipendenti. Non solo, poi c'è l'opposizione che ti fa il documento, sindaco, ma tu avevi detto che nessuno di più, mo fai scaricare, non puoi essere nemmeno solidale. Allora, stamattina c'è i vici per andare, ma perché non viene rispettata l'ordinanza del commissario per l'agenzia ambientale? Il sindaco di Saraceno, molto bravo, però il rifiuto me li manda a Cassano. Non ha pensato a vedere come fare per ciò che non è, che viene fuori dopo la raccolta, se lo deve tenere sul territorio. No, lo manda a Cassano, addirittura il sindaco di Saraceno. E lo dico favorevolmente, perché siamo venuti insieme, non in polemica, lui è testimone. Cioè, addirittura accinto la fascia di sindaco che è venuto sul mio territorio per dire ordino di far scaricare nel comune di Cassano. Io, una cosa triste, con me che poi metto la fascia, tu non scarichi, poi c'è tutto, me ne sono andato, perché abbiamo rischiato di fare gli imbecilli, me ne sono andato, ho fatto finta di nulla, eccetera. Però amici miei, io dalla regione Calabria stamattina avanzo 1 milione di euro già anticipato dal comune di Cassano per lo smaltimento, il costipamento dei rifiuti dei 17 comuni dell'Alto Ionio e di tutti quei comuni che di volta in volta sono venuti a scaricare a Cassano. Io non posso pagare gli stipendi. Allora, prima che chiudesse l'ufficio del commissario, devo dare atto a Speranza che dopo l'accordo, dopo le prime proteste, cioè lui mi ha mandato 800.000 euro e quando c'è stata la polemica sulla stampa ho dato 800.000 euro al comune di Cassano, quasi quasi come se fosse stato un regalo, soldi già tolti, cioè pila, moneta liquida che il comune ha pagato per smaltire i rifiuti, ci ha fatto passare che ci avesse fatto un regalo. Stamattina 1 milione di euro, può un comune come Cassano anticipare 1 milione di euro per costipare i rifiuti non suoi, perché abbiamo una discarica, la torre Toscana, di 120.000 tonnellate, 60.000 sono già state smaltite, quindi siamo al 50% dell'utilizzazione della discarica, e il mio comune lì ha conferito 15.000 tonnellate, tutto il resto è di altri comuni. Ieri ho chiamato Pugliano, ho parlato con l'ingegnere Gualtieri, ho detto scusate, io che ho mandato una rifila, io non faccio scaricare i comuni dell'Alto Ionio. Il nostro comune amico e compagno Franco Mondo mi ha mandato una lettera, non condivido il fatto che tu dici, ieri ci siamo riuniti, ma scusate, ma io quale arma ho come sindaco? Qual è l'arma che ho per riprendermi i soldi che ho anticipato, che mensilmente io devo pagare la fattura? Qual è l'arma che ho nei confronti della regione? Che no, non paghi gli stipendi ai dipendenti comunali, quindi accomodate, scaricate, io che vi sistemo i rifiuti. Oppure basta, nessuno scarica se prima non mi date i soldi. Allora, ieri ho parlato con il dirigente generale della Società dell'Ambiente, poi con Bugliano, garbatissimi tutti e due, mi dicono Rossano è chiuso, dobbiamo andare a Taranto. E allora giorno 8 c'è il consiglio comunale, il consiglio regionale, stanno vedendo come fare per inserire una norma, una deliberazione per far sì che la regione trovi un gruzzoletto di somme da mettere a disposizione della strada all'ambiente per gestire questa situazione qui. Siccome l'ho saputo cerco di infilarmi dentro. E l'assessore mi ha detto, sì, però non è che noi possiamo dare tutti i soldi al comune, perché insomma abbiamo trovato questa situazione, scusatemi, di fronte a questa emergenza, cioè io voglio sapere una risposta, anche i colleghi, che a cui voglio bene a tutti quanti, a me ti possono scaricare, può far finta, tanto è un problema che c'hai tu. E allora, quando ti rigidisci, al anche dei proponimenti politici, perché campagna elettorale, ma i rifiuti comune capo pattumiera no, eccetera. Sono proponimenti politici che io conservo, che mantengo in data. Però io non voglio fare come casa la fine di Giuseppe Mignone, che lui ha ospitato 300.000 tonnellate di rifiuti e oggi non sa dove mettere i suoi rifiuti. Una cosa assurda. Allora, tutti quanti noi dobbiamo essere riformisti e dobbiamo dire va bene la differenziata, tutto quello che diciamo, eccetera, eccetera. Però dobbiamo essere aperti con la mente, gli impianti vanno realizzati. Per esempio, i sindaci dell'Alto Ionio Cosentino si sono recati da Pugliano e dal direttore generale Gualtieri nei mesi scorsi, abbiamo una proposta, abbiamo detto dove voi volete, sul territorio di qualsiasi comune delle 17 potete realizzare un impianto per diventare autonomi, perché se non ci approcciamo così alla vicenda, e se facciamo la filosofia, che io non vorrei essere frainteso soprattutto dalle associazioni, cioè io sono per la differenziata spinta, venite a vedere il comune Cassari, io ho tolto tonnellate e tonnellate di letame sul territorio del comune Cassari. Per esempio, un'altra cosa di cui dobbiamo parlare, ma no, c'era una società che ha realizzato un impianto nel materasso, non è un dissociatore, però è un impianto che non è un dissociatore perché pare che non tanto sono apprezzati. Un altro problema è che io metto sul tappeto, amici miei, so che non c'è niente, però il mio assessore all'ambiente, a cui voglio particolarmente bene, ne deve prendere atto e deve sposarla come provincia anche la causa. Noi abbiamo la vicenda di Prato, non per le esondazioni, che lì stiamo lavorando per mettere in sicurezza, per mettere a posto gli argini, sappiamo tutta la vicenda. Ma a Sibari, perché? E quando parlo di Sibari parlo di Cogliano, Rossano, Cassano, Trebisaccio, fino a Rocca Imperiale, fino a Oltre Cariante, cioè. Ma possono arrivare i liquami di tutta la provincia di Cosenza? Sono 90, l'asta fluviale del Prato è 90 chilometri. 90 porcherie arrivo, no? Scusate, è possibile, si sta facendo un piano per quanto non c'è neanche il sistema depurativo. Noi chiediamo con forza la pulizia del Crati, perché non è possibile che noi che dobbiamo vivere del turismo dobbiamo prenderci tutte le porcherie che arrivano da voi, perché nel corso degli anni, qui il fallimento, fallisce il sistema dei rifiuti, fallisce anche il sistema acqua, tutto in capo all'ufficio commissario per l'emergenza ambientale, anche se io vi dico una cosa, per l'esperienza maturata, perché tutti i difetti l'ufficio commissario, però è un potere di dire che rispetto a tutto, l'ordinanza stabiliva. Oggi che rientriamo nella normalità, ed è giusto rientrare nella normalità, ci saranno caviglie procedure burocratiche che quelle che c'è scritto qua sopra, se non ci mettiamo in testa che dobbiamo essere veramente riformisti rispetto al problema, continuerà a persistere. Quindi, alla lamentela del sindaco di Rossano, che condivido, apprezzo, sono vicino, vorrei che anche i giornalisti possano essere, la città di Cassano è solidale con Rossano, ci aggiungo anche la mia, fra pochi giorni sommeranno i soldi nella discarica di Cassano, io non godrisce più nessuno. Perché io non posso non pagare gli stipendi ai dipendenti per aver anticipato somme per costipare i rifiuti degli altri comuni. Questa è la solidarietà che facciamo. E se poi a questo aggiungiamo che per lavori pubblici il mio comune ha anticipato 2 milioni di euro e ancora non rientro, aggiungiamo che c'è un istituto per anziani a Cassano che da 4 anni non riceve le rette e accredita dalla regione 1.200.000 euro, e tutto il sistema è fallito. E allora il comune si irrigidisce, il sindaco passa come mostro, passa come quello che non è salutato, ma cerca di fare tutelare gli interessi del proprio territorio e cerca di evitare di finire come ha finito Giuseppe Andreotta Rosario, che oggi sconda il peso della eccessiva solidarietà che Rosario ha mostrato a tutta la Calabria. Gallo come erede. Piccola considerazione di sintesi, bisogna incominciare a farla. Io diciamo che ho sentito tante verità, tutte valide, e la somma di queste verità, che chiaramente sono state vissute sulla spalle dei cittadini e delle singole amministrazioni, la somma di tutte queste verità rappresenta proprio l'essenza del problema. Cioè che siamo di fronte non a un problema che si può così risolvere all'interno di una cerchia comunale, ma siamo in presenza di un problema che diventa un vero sistema rispetto al quale quasi tutte le scelte vanno condivise su più territori comunali, anzi addirittura in ambiti provinciali, che devono avere, perché questo problema ha anche una dimensione economica sotto il quale non si può scendere. Cioè il problema non è il singolo comune o lo smaltimento del singolo comune, il problema è anche tenere in piedi un sistema che ha una sua sostenibilità per economica, e quindi i numeri sono quelli ampi, non dei singoli comuni, sono quelli più. Intanto io vi parlo in rappresentanza di un comune che in un anno e mezzo è arrivato al 50% di raccolta differenziata, il 52%. Quindi ho apprezzato moltissimo quello che ha detto il sindaco di Saracena, e su questo veramente vi spingo a fare tutto quello che è nelle vostre possibilità per arrivare nel tempo più breve possibile a una percentuale che mi piace, come l'ha definita l'assessore civile. Proprio è il minimo di partenza, il 35% della legge Ronchi sarà quella la percentuale civile, diciamo che almeno è quella per legge, quella a cui dobbiamo partire. Quella è. Su questo condivido moltissimo l'idea di costituire un gruppo di lavoro per il quale io do la mia disponibilità come comune, anche mia personale, per la conoscenza che ho del questo problema, per stare insieme con chi vuole lavorare su questi temi, e sapendo che noi su questi temi ci dobbiamo lavorare, non è una scelta, non è una scelta. Quindi io do la mia disponibilità, la do anche perché il comune di Rende pare che sia in questo piano regionale dei rifiuti destinatario di un impianto che non si capisce bene che cos'è, perché ha fatto bene Gianni a fare una breve storia di alcune cose, diciamo un impianto in senso stretto come termovalorizzatore non è più previsto nella provincia di Cosenza. Devo dire che forse alla luce di quello che sta avvenendo ora non fu una scelta sbagliata, se non per una cosa, che però si poteva fare di quel piano Cosenza Nord tutto il resto del piano, che erano gli impianti di valorizzazione, gli impianti di trasferenza. Invece di quel piano non se ne è fatto nulla, si è buttato al mare il bambino con l'acqua sporca, e noi diciamo di questa ci sono anche delle responsabilità, diciamo, rispetto alle quali io glisso, ma voglio dire oggi siamo in quella condizione perché di quel piano non se ne è fatto nulla, neanche le parti buone, non erano molte, ma si poteva fare. Quindi il problema non è più il termovalorizzatore, a Rende viene previsto un impianto, non so che tipo di impianto, presumo che sia un impianto di selezione, che tutto sommato fa parte, sta nella filosofia della raccolta differenziata, nel percorso che noi dobbiamo costruire. Allora io rispetto a questo tema sono assolutamente d'accordo. E aggiungo un'altra considerazione che ha messo in luce il sindaco di Cassano e devo dire anche il sindaco di Nasolossano, che è chiaro che questi comuni hanno bisogno di determinare una loro sostenibilità di questi impianti che vanno gestiti, per cui tutti questi piani prevedono delle royalty per i comuni perché ospitano gli impianti, una cosa normale, una cosa giusta, perché ma questi sono problemi che non hanno particolare importanza. Però io dico che intanto noi dobbiamo portare a casa la volontà di tutta la provincia di Cosenza di impegnarsi per una raccolta differenziale, differenziata il più spinto possibile. In questo senso ci sono più tipologie di comuni che hanno raccolto risultati così diversi, è giusto che chi ha avuto qualche risultato mette a disposizione la propria esperienza di tutti quanti gli altri, per tutti quanti gli altri, per cercare di alzare la qualità complessiva della nostra così provincia, che guardate si è sempre contraddistinta e non per, lo posso dire senza tema di essere smentita, anche per la qualità dei propri amministratori. Io su questo ci tengo molto, che la provincia di Cosenza continui, diciamo, a dimostrare le proprie capacità. È stato così da sempre e io sono convinto che ancora oggi lo è, quindi anche su questi temi noi siamo in grado di poter dare una risposta importante, a condizione, e qui è un po' quello che diceva così l'assessore, che noi siamo in grado di fare la nostra proposta, che noi siamo in grado di assumerci le nostre responsabilità e che noi siamo in grado di condividere le nostre responsabilità tutti insieme, perché quelle di Cosmadeo o quelle di Felice o quelle sono le mie responsabilità, sono responsabilità di un sistema che fa del turismo, della qualità dei beni culturali e dell'offerta dei suoi territori, della bellezza dei suoi territori, il vero volano per uno sviluppo. Questa è un'occasione di sviluppo non solo perché c'è chi impiega persone nella raccolta differenziata, ma perché un corretto sistema crea un'immagine migliore. Noi siamo in grado, io penso, con degli sforzi relativamente più organizzativi che non, diciamo, economici, perché molte volte questi contributi sulla raccolta differenziata sono stati pure dati, noi li abbiamo anche usufruiti. Cioè, però allora perché i risultati non sono stati, diciamo, sono stati non diffusi? Forse perché, diciamo, questa azione di coordinamento che tu hai così promossa va istituzionalizzata, nel senso, no? Perché forse le esperienze vanno messe a disposizione di tutti. Una cosa. Un'altra cosa da dire è che Gianni ha parlato un attimo, però io qua mi fisserei sulle acque reflue, su Crati, lasciamo stare perché poi su questo io mi auguro che ci sono dei finanziamenti in corso e poi di questo poi ne parlerei. Per cui do un'ultima informazione, che avendo noi raggiunto il 52% di raccolta differenziata, credo che siamo stati l'unico comune che ha abbassato l'alta, ed è un altro modo per dare una risposta. Non è stato un grande valore, però per le famiglie è stato quasi il 10% in meno, per le aree industriali quasi il 5%. Insomma, in un momento in cui uno alza sempre, noi abbiamo risparmiato 900.000 euro per essere arrivati al 50% di raccolta differenziata, abbiamo scelto di non tenerceli, giustamente, ma di così restituirli a chi questa raccolta differenziata aveva contribuito a farle insieme a noi. Un'ultima cosa, io direi che la raccolta differenziata è un problema culturale, quindi noi dobbiamo spingere moltissimo sulla comunicazione. E questo, diciamo, sicuramente Peppino, e anche mi auguro che farà ogni cosa nel suo possesso. Io quindi do la mia disponibilità. Grazie, per questo gruppo. Grazie Annello Gallo. Frank Turco, Rete Difesa del Territorio. Velocemente che dobbiamo chiudere, Frank. Buongiorno a tutti. Grazie a tutti per essere qui stamattina. Sono Frank Turco della Lipo e siamo insieme con la Rete Difesa del Territorio. Ci dispiace vedere così pochi sindaci rispetto alla volta scorsa, a sabato scorso, anche perché se si considera il problema dell'emergenza rifiuti, uno dei presenza, di, se non tutti, ma non è il 90% dei sindaci della, della provincia di Cosenza. Il punto focale è questo qua, tutti parlano che il rifiuto è una risorsa. Il discorso che poi c'è chi la vuole distruggere, quindi la, la sottoterra con le discariche, e chi la vuole bruciare nell'incenerimento. Però se la, il rifiuto è una risorsa, l'unica strada percorribile è quella del riciclo, non ci sono altre, altre alternative. Io faccio un applauso ai sindaci che hanno parlato prima, tipo il sindaco di Saracina e il sindaco di San Nicolà Arcella, perché hanno, hanno veramente centrato il problema. Io vedo qua che hanno parlato diversi sindaci, anche con posizioni diverse, che si sono espressi contro le discariche, a favore delle discariche, a favore dell'incenerimento, ma guarda caso sono tanti sindaci che hanno alte percentuali oggigiorno di raccolte differenziate, sono gli unici che si sono espressi apertamente contro le discariche e l'incenerimento dei rifiuti. Il sindaco di Saracena addirittura ha fatto degli esempi, cioè ha dato lavoro a 20 persone in più in giro di un anno o due, ha diminuito i costi e già nel primo anno ha raggiunto il 60% di raccolte differenziate. Assessore Lieta. Quindi quando lei prima diceva, voglio fare una critica costruttiva, eliminare i cassonetti di strada va benissimo, questa è una delle prime soluzioni da, da adottare, i cassonetti per l'indifferenziato. Però quando ha detto la raccolta costa, e beh, questo va in controtendenza con quello che ha detto il sindaco di Saracena o il sindaco di San Nicola Arcella, cioè ci dobbiamo mettere d'accordo che qua ci sono due strategie di pensiero, c'è una strategia che dice la raccolta differenziata costa, sono costi, costi a destra e costi a sinistra, e poi c'è chi, comuni virtuosi come Saracena e San Nicola Arcella, che hanno affermato l'opposto. Ripeto, a Saracena hanno inviato 20 persone in più, hanno diminuito i costi della gestione dei rifiuti e in un anno hanno raggiunto il 60%, anche Rete qua c'è la deposizione, l'ha detto poco fa, in un anno che hanno avviato la raccolta porta a porta, spinta, hanno raggiunto, hanno superato il 50% di raccolta differenziata. Ma noi pazzi delle associazioni civiche sono anni che stiamo ripetendo di avviare la raccolta porta a porta, però ricordo alla, all'assessore attuale qua di Rete che anche nella passata legislatura avevamo proposto il porta a porta spinto, ci hanno detto che solo i piccoli comuni possono farli, i grandi comuni non è, non è possibile. Allora, finalmente hanno cambiato idea e ci fa piacere. Ci dispiace che ancora molti sindaci la pensano diversamente. Allo stesso tempo, poi volevo dire che per quanto riguarda il documento di sintesi strategico che stanno preparando, se c'è l'apertura da parte della provincia di darci disponibilità per inserire le nostre idee come associazioni in, questa, in, in quest'ambito. Per quanto riguarda il sindaco di Cassano, diceva dobbiamo produrre CDR, beh, questo qua della produzione del CDR va proprio contro la normativa, contro la normativa nazionale ed europea, cioè qua, questo è il piano regionale dei rifiuti calabrese, o meglio, è la rimodulazione che ha fatto la giunta attuale. Nel, a pagina 3 mette praticamente la piramide, che è poi quella che riflette la direttiva della Comunità Europea. In, al primo posto che troviamo? Non troviamo mica gli genitori, non troviamo mica le discariche, troviamo la prevenzione del rifiuto. Poi troviamo il riutilizzo, il riuso. Poi troviamo il riciclaggio e poi troviamo il recupero e il smaltimento di discarica. Questa è la piramide. Per quanto riguarda il sindaco di Ressano, poi un altro appunto che ho preso, parlava prima in merito alla discarica di Castello Libero, dice che si tratta di cavalli burocratici, e invito il sindaco di Rossano a fare un'interrogazione alla Regione Calabria, a chiedere gli atti, e si renderà conto che non si tratta di cavalli burocratici, ma di gravi irregolarità connesse con la costruzione della strada e della discarica del Comune di Castello Libero. Quindi prima di fare determinate affermazioni si dovrebbe informare bene. Com'è? No, no, no, no, voglio semplicemente fare delle critiche. Semplicemente voglio fare delle critiche costruttive. No, no, no. Andiamo alle proposte, Frank, perché qui siamo per le proposte. Certo, certo, ci sono. Se, no, sfruttiamo. Stai facendo la risonanza delle critiche. No, no, no, assolutamente. Ma non capisco perché c'è un piano, ma non capisco perché il sindaco di Rossano si arrabbia così. Ho detto semplicemente di fare un, di informarsi a livello agli uffici regionali presso gli uffici. Andiamo alle proposte. Grazie. Vabbè. Sfruttiamo l'emergenza per non ricadere nel circolo vizioso delle discariche, perché la questione qual è questa? Noi siamo adesso in un periodo di emergenza e spesso l'emergenza può essere il punto di svolta per qualcosa di nuovo. Il qualcosa di nuovo è quello della raccolta differenziata spinta, altrimenti con la scusa dell'emergenza rischiamo di ricadere di nuovo nel circolo vizioso delle discariche, ci siamo da più di 20 anni in questo circolo vizioso. Ripeto, la raccolta differenziata non implica tempi lunghi, Si può fare da subito e lo hanno dimostrato già attualmente dei sindaci della nostra regione. Al sindaco Di Marzi diciamo, siccome ha parlato di utopia di strategia rifiuti zero, ha parlato di incenerimento non inquina, beh, vorrei chiedere al signor Di Marzi dove mettiamo le ceneri, i ricchi di metalli pesanti. Si fa filosofia, ha detto, sì, la filosofia è nata 2500 anni fa, forse anche più, e se oggi siamo in questo, i rifiuti si invadono le nostre strade, forse perché nella strategia rifiuti non c'era nulla di filosofia, zero. E la filosofia dovrebbe essere la base della nostra cultura. Gli rifiuti zero è un'utopia, ha detto. Beh, noi diciamo all'estero di Marzi che la strategia rifiuti zero sta per diventare legge, è stata appena depositata in Cassazione e nella prossima settimana si inizierà a raccogliere le firme a livello nazionale. Sindaco, scusami. Io ringrazio. Non andare via che stiamo concludendo. Mi spiace. Un minuto solo abbiamo concluso. Le responsabilità che abbiamo noi altri sindaci non possono essere alla fine calcolate in questo momento. No, sindaco, ti prego, noi dobbiamo essere. Io la pagella non la c'è. Perfetto, la pagella. Andiamo alle conclusioni. Ti prego di. La verità fa scappare. La verità fa scappare. Ok, no, io ho concluso, ho detto quello che dovevo dire, tutto qua. Mi dispiace di aver portato un po' di la proposta, Frank, perché sennò. La proposta è raccolta differenziata, sì, e adesso mi fa riguardare anche un'altra cosa: raccolta differenziata e riciclo. La conclusione che spesso sento tra i sindaci, questa qua, parlate di impianti, per fare la raccolta differenziata non c'è bisogno di impianti, ci vogliono 3-4 secchielli, questo ci vuole. La raccolta differenziata è principalmente un problema organizzativo, gli impianti vengono nella fase successiva, nel riciclo, e la parte del riciclo, dopo questa è una parte successiva, ti prego. Grazie a tutti, scusate. Grazie a te. Allora, io direi, Gianni, scusami, perché sennò poi, cioè, beh, io sono per la libertà di tutti, cioè ognuno esprime un proprio pensiero, mi dispiace, cioè al di là delle pagelle, delle cose, noi a messe liberi di poter dire quello che pensiamo, e bisogna anche essere pazienti ad ascoltare. È chiaro che se ci sentiamo offesi dalle parole degli altri replichiamo come si fa normalmente, ma insomma le riunioni di questo tipo saranno da qui in futuro sempre più appesantite dalla polemica, perché è evidente che nella società civile c'è ormai una consapevolezza diversa tra i diversi strati, tra di noi abbiamo una consapevolezza diversa, tra di noi, cioè io ne ho una, il sindaco di San Nicolarcella, la mia grande amica Barbara Mele, ne ha un'altra, e così tutti gli altri. Insomma, siamo nell'era in cui si teorizza la decrescita, figurati se non potevo parlare di riduzione dei rifiuti, ne dobbiamo parlare. È chiaro che gli strumenti che abbiamo a disposizione sono svariati, diversi, però abbiamo l'obiettivo. Siccome noi dobbiamo parlare di riduzione dei rifiuti e dobbiamo parlare di differenziate, delle cose che vi esaltano, la bellezza, Frank, la bellezza, mi piace, più di te, io sono più avanti di te su questo, sono contro gli inceneritori, sono contro le discariche, però mo abbiamo un problema, va bene? Il problema è ripulire le nostre città, ripulirle per presentare la loro bellezza ai cittadini che verranno, se verranno, a visitarle, va bene? Allora noi dobbiamo fare un coordinamento dei sindaci. Io metto tutti quelli che erano presenti. Ricordo a tutti che io non ho fatto inviti, e Matteo mi è testimone, perché abbiamo aggiornato la riunione scorsa, l'abbiamo aggiornata ad oggi. Ci siamo preoccupati solo di chiamare qualche sindaco che era assente per farlo venire. Ora, io aggiorno questa riunione, se voi siete d'accordo, lo stabiliamo adesso però, perché questa cosa è come un dono che va preso dalle corde. Perché se poi rimandiamo, perdiamo anche l'entusiasmo. Allora, se voi siete d'accordo, possiamo aggiornare. Mi pare che l'8 c'è il Consiglio regionale sui rifiuti. Chi lo diceva? Sì, ho detto io. L'8? Ci vogliamo aggiornare al 9? Anche il 10. Vediamo cosa fa. Al 10? 10 mattina alle 10:30? E intanto. intanto ci andiamo, io ci verrò a questo consiglio regionale, vediamo un attimo di parlare con Pugliano. Intanto noi stiamo facendo un resoconto degli spazi che abbiamo per abbancare, e dopodiché va bene? Il 10 alle 10 e mezza va bene? Perfetto, bene. Grazie e viva la libertà! Viva la libertà!